Stai su Radio Wombat e questa è Hot Perez. Radio Wombat. Hot Perez. Eccoci, buonasera amici ascoltatori, siamo su Radio Wombat e questa è 8 Hertz, come annunciava il jingle. Questa puntata inizia con queste sonorità. Non ci sposteremo molto, ma insomma ci saranno dei percorsi differenti per arrivare a queste cose elettroniche che stanno tra il, se ci sono un sacco di generi dentro, dall'electroclash o il funk, l'elettrofunk di Detroit, per passare proprio al synth pop, al post punk, a tutta una serie di generi che vengono un po' da una controcultura, vengono sia dalla strada sia da alcuni tipi di club che facevano cose anche di divulgazione di vari contenuti. Appunto loro erano i DMX Crew con You Can't Hide Your Love del 1997 e questa è la versione diciamo originale che la trovate solo su singolo e poi il brano in realtà si trova su Fresh con tante H, sempre del 97 che è un album suo che ha sotto Reflex l'etichetta appunto di Aphex Twin. DMX Crew da non confondere con la DMX Crew Hip Hop, che è un rapper che non mi piace per nulla, tra l'altro. È il nome di Edward Upton, c'ha anche altri nomi, un produttore di elettronica, ha fatto tantissime cose, e ha registrato tanto appunto per la Reflex, ma anche per la sua etichetta che si chiama Breaking Records, che appunto ha degli artisti, diciamo, di questo stampo qua, con questo sound di anni 80 tra il breakbeat e l'elettro americana, diciamo, quella che venne da Detroit, quella un pochino più originaria. Perché vi ho messo questo pezzo? Perché in realtà era legato a un altro disco che mi fece ascoltare un grande amico che è Luzu, che vi ho fatto sentire altre volte, che fa elettronica vicino Catania, diciamo, i fratelli Luzu anche. E mi dette questo sia un disco dei DMX Crew che un disco che era un Various Artist, una mista, che si chiamava 2028-2028 Date Is Now, che era sempre del 99, quindi vabbè, qualche anno dopo comunque il periodo era quello, che uscì per questa etichetta che si chiama Dutzend, che in realtà ha fatto solo questo disco, questa mista, diciamo, e sono tutti artisti e musiche bellissime. Mi ricordo a quei tempi ci impazzì. Era il periodo, diciamo, in cui i Daft Punk andavano per la maggiore nel commercio, per cui ci potete trovare anche quel tipo di sound un po' francese. E vi faccio sentire tre pezzi tratti da proprio questa diciamo antologia. Il primo in questione è di Antonelli Electre, come Antonelli Electronics, si chiama Automatic Music. Ne so ben poco di lui, so solo che tra le tante cose che ha fatto ha anche collaborato con Miss Kitty. Non è questo il pezzo con Miss Kitty, ma appunto è quello di 2028 di Date Is Now, Automatic Music. Thank you. Magari vi faccio un DJ set su questa roba che è tanto carina e molto divertente da ammettere, più in là nelle prossime trasmissioni. Diciamo che questa puntata è legata un po' dalla baseline, a parte il tutto che è un po' sintetico, diciamo, anzi parecchio sintetico a questo giro, quindi no rock, non pesanto... appesantimento come la settimana scorsa. Invece è tutta un po' così, più elettro, diciamo. E vorrei, sì, oltre a farvi un mix, insomma, di queste cose, insomma, spiegarvi la bassline, che cos'è, quel suono che sentite sotto, che fa un po' da, la chiamano anche arpeggiatore, che sono dei synth, di solito stanno un po' sulle basse, sulle medio basse, e creano un po' questo tappeto che tanto piace all'orecchio e alla percezione dell'essere umano. Andiamo avanti, e sempre con la compilation 2028 o 2028 che mi piace di più, così come Radio Wombat è 1359 su AM, quindi ascoltateci per dove prende campo. Anche in macchina o via etere, come è giusto che sia una vera e propria radio. 2028, la compilation, il prossimo musicante, produttore, anzi, perché questi sono più produttori che musicisti, si chiama Turner, col pezzo che si chiama Ports. Turner è tedesco, è anche cofondatore di una label che appunto fa dall'house al breakbeat al downtempo, che si chiama Dial Records. Questa è Ports, la potevate appunto ascoltare in questa compilation che vi consiglio caldamente. Thank you. cambiato voce. Mi hanno detto dalla regia che era equalizzata male e quindi l'hanno riequalizzata solo per me. E a Turner Porze dalla compilation 2028. Vi metto l'ultimo brano dalla compilation, poi la faccio finita, che in realtà era il brano di apertura. Loro sono quelli più famosi, si chiamano i Consol. Il pezzo si chiama 1400. In realtà è tratto da Rocket in the Pocket del 1998 e sì, è della Virgin, che la Virgin fino agli anni 90 qualcosa di decente sfornava. Insomma, Consol era questo individuo singolo, Martin Grassman, che mi sa che è del Liechtenstein, quindi insomma, trovate altri gruppi che vengono dal Liechtenstein, che ha iniziato a suonare sulle buffo perché nella biografia del sito dice questo, che ha iniziato a suonare da solo tra il 94 e il 95, ma dopo qualche concerto si era annoiato e quindi ha invitato degli amici a suonare insieme a lui e da lì gli è presa bene, quindi suona sempre con qualcuno, soprattutto dal vivo, anche se magari le composizioni sono fatte solo da lui. Ad oggi sono Martin Grissman e Miriam Ostreider, non so come si pronunciano bene. Il pezzo è molto molto carino, sono anche un po' ironici, diciamo. Console 1400. I got my heart. got my hard disk, disk, disk, disk, disk. Rimaniamo a Detroit, anche se loro non sono Detroit, ma finora avete sentito cose che hanno a che fare un po' con il Detroit style dell'elettro. Per proporvi un gruppo appunto di Detroit, un duo di Nicholas Cooperus e Adam Lee Miller, in arte Adult con il punto, e passando così a una sorta di legame tra questo tipo di musica ed altre in stile 8 Hz, dove appunto la mente associa tanti tipi di percorsi, li mescola insieme per trovare più o meno un filo comune nelle cose per un viaggio mentale abbastanza significativo e particolare, con questi Adult che ormai sono ben conosciuti nell'ambiente elettro, electrowave, post-wave o neo-wave, come cavolo li volete chiamare tutti questi sottogeneri, che comunque di base hanno appunto l'arpeggiatorone o la bassline. Questo gruppo è importante perché ha fatto un sacco di remix e collaborazioni insieme, per esempio con i Tuxedo Moon, con i Dead in Vegas, con un pezzo famosissimo, John Fox, i Pet Shop Boys, e oltre a produrre dischi fanno anche di tutto di più, dalle sculture a fotografie a performance, video installazioni, film, hanno fatto un po' di tutto, e tra l'altro tante cose loro sono state esposte o sono state esibite in un sacco di gallerie famose in tutto il mondo, dal MoMA in Giappone a Saitama, a Pittsburgh o in Francia al Centre d'Art Contemporain di Meymac, insomma in Messico, hanno un po', si sono dati parecchio da fare, diciamo. Quindi non mi rimane che metterli. Questo pezzo è tratto da uno dei primi dischi loro, forse il primo se non sbaglio, si chiama Anxiety Always del 2003, esce per Ersatz Audio, che tra l'altro è la loro etichetta, perché ovviamente hanno fatto pure un'etichetta che ha fatto una quarantina, 40-50 album, quindi insomma si andranno a fare pure da quel punto di vista. Il brano si chiama People You Can Confuse, Adult con il punto. Thank you. stiamo entrando in una modalità un po' più darcheggiante, anche se comunque sempre sinteticissima. Appunto, gli adult, prima di passare agli altri pezzi, vorrei fare uno stop un attimo e ricordarvi un po', di cose riguardo alla radio, che sono, appunto, scrivete apposta wombat@insiberia.net se volete proporre qualcosa o se volete infamarci, criticarci, oppure anche dirci: mamma mia, che belle trasmissioni che fate. C'è un Facebook, un Twitter, il sito ovviamente lo conoscete, che è wombat.noblogs.org, wombat ovviamente sempre con la W. Potete ascoltarci appunto in AM alla frequenza 1359. Potete sentire le repliche dei programmi che sono due alla settimana, sì, oltre alla diretta come c'è per esempio stasera, in un algoritmo un po' pazzo. Comunque, se andate a vedere la programmazione appunto sul sito di Radio Wombat, vi sarà tutto chiaro, è tutto molto preciso, tutto molto fantastico e funziona tutto. Per cui guardate appunto il sito, tutti i programmi e un po' l'agenda nella quale c'è scritto tutti gli appuntamenti, tutte le varie trasmissioni, ognuna è appunto, ha appunto un marchio particolare, dalla linguistica dell'Accademia della Brusca alla musica classica, non mi ricordo bene tutti i programmi, che sono tanti, che si chiama La fuga del gatto, quella di musica classica, e comunque ce ne sono tantissimi, per cui veramente c'è l'imbarazzo della scelta. È sicuramente qualcosa che vi piace tanto, la troverete sicuramente. Andando avanti, si diceva della d'archettoneria che sta entrando in me in questa puntata, e vi faccio ascoltare l'unico, diciamo, pezzo dannato degli anni Ottanta, che si chiama Sleeper in Metropolis, che è un po' un classico, che è di Anne Clark. Anne Clark è questa inglese poetessa che negli anni Ottanta ha sperimentato appunto l'uso del parlato nei pezzi anche molto ritmati, cosa che hanno ripreso appunto anche nell'Electro Clash, tantissimo nella Dark Wave, nella New Wave, insomma, è stata un po' un'anticipatrice. Qui vi faccio ascoltare questo bellissimo pezzo che è stato composto insieme a David Harrows, che fondamentalmente ha sempre fatto cose sintetiche, e le cose migliori di Anne Clark sono con lui. È tratto dal disco Changing Places, che uscì per Red Flame nel 1983 e suona attualissimo. Anne Clark, Sleeper in Metro, in Metropolis. love cannot take root. No shadows will replace the warmth of your contact. Love is dead in Metropolis. All contacts revolve or partition. What a waste. The city, a wasting disease. Carichi da questo pezzo bellissimo, stupendo, vi ricordo che siamo su Radio Wombat e questa è 8 Hertz, stasera 8 Hertz è così, elettro, post-punk, dark wave, è tutta elettronica e ritmatissima. E ci ascoltiamo, tra l'altro vi volevo dire che il discorso precedente, potete ascoltarvi anche tutte le trasmissioni che sono state fatte, ormai siamo alla terza stagione di 8 Hertz, ma anche di tanti altri programmi, potete ascoltarvi tutto sempre nel sito wombat.noblogs.org, ascoltando i podcast, ci sono proprio tutti, quindi potete fare anche un discorso filologico volendo pazzo e diventare esperti di ogni puntata. Ma passiamo un po' ora a farvi ascoltare qualcosa che è uscito da pochi anni o recentemente, come il pezzo di ora che è di Lebanon Hanover, che sono un gruppo appunto formato nel 2010, quindi non da tanti anni, di un duo di Larissa Iceglass svizzera e William Maybelline o Maybelline dalla Gran Bretagna. Io li ho conosciuti da poco, vedendo un video di un disco del 2013, il pezzo si chiama Gallon Dance, in cui si vede, suppongo, lei che balla molto sfavata in un ambiente all'aperto, quasi rurale, e mi ha fatto simpatia perché era veramente, veramente sfavata. E il disco era Tomb for Two, tra l'altro, quindi siamo super darkettoni dentro. Ma stasera vi faccio ascoltare un altro pezzo, che è un singolo del 2016, credo sia l'ultima cosa che è uscita loro per Fabrica Records, che si chiama Babes of the 80. Ovviamente il rimando agli anni 80 è non forte di più. È buffo anche questo video, sono tutte scene prese da un club o più club degli anni 80, direttamente dalla VHS, dove sono queste persone che ballano, sono tutti darkettoni e sono tutti molto belli. Lebanon Hanover, Babies of the 80. Un'altra uscita che mi è piaciuta su queste cose un po' retro, ma con una carica un pochino anche odierna, diciamo, ce la potete scoprire dentro piano piano, sono i Boy Archer, che è un altro appunto duo, diciamo che più o meno sul synth pop e derivati dark wave sono sempre più o meno in due, uno che fa le basi e poi lui o lei, fondamentalmente lei, di solito canta così come succede nei Boy Archer, che sono americani del Massachusetts. Il disco che ho scoperto si chiama Lesserman del 2015, che esce per Oracolo Records, un'etichetta piccola. L'ho trovato molto molto carino e divertente, e soprattutto ballabile. Non so se avete fatto il passo le tre mattonelle mentre ascoltavate il brano precedente. Potete farla anche con questo qua. È molto più legato all'EBM, che è un'altra sottogenere di un po' di tutto quanto, tutto quello che riguarda l'elettronica, electronic body music. Quindi era una cosa molto fisica. Mi piacerebbe farvi una puntata anche sull'EBM, ma è molto difficile perché tanta roba è brutta e poca roba è bella, ma la roba bella varrebbe la pena di farvela ascoltare. E loro quindi hanno questa voce che è un po' più eterea dell'altra, della cantante di Lebanon Hanover. Comunque basta, ve lo faccio ascoltare. È un pezzo un po' lunghino, molto neuronale. Se siete da soli o da sole nella cameretta, alzate il volume e iniziate a ballare. Thank you. Scusate, c'erano problemi in regia. Stavo dicendo che, a parte che state ascoltando Radio Wombat, questa è 8 Hz, la potete ascoltare anche in frequenza M su 1359, dove prende a Firenze, perché è una radio di Firenze, una radio popolare per tutti, senza pubblicità. E il pezzo che vi faccio ascoltare ora è di Dance Artane, che è un'altra uscita degli ultimi anni. Lui è un musicista che fondamentalmente fa dal garage rock a rockabilly, è un musicista dell'Alabama, e fa tutto ciò a parte l'ultimo disco, che appunto è del 2015 e si chiama Century Plaza, uscito per One Little Indian, dove sperimenta le sue composizioni rockabilly in versione synth pop. Infatti il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Walk Among the Cobras, era un pezzo suo di un album precedente, qui è rifatto appunto in una versione tra i Depeche Mode e proprio il synth pop dark wave per eccellenza. Ascoltatelo, ma chi è che vi fa ascoltare l'elettro rockabilly a Firenze, ma anche in Italia, come radio? Nessuno a parte Radio Wombat. Dance Artane, Walk Among the Cobras. È molto cool, diciamocelo, è molto molto cool. Allora, Dance Artane, Avevo trovato un altro pezzo, Elettrobilli praticamente, non so se esiste o lo coniamo stanotte, Elettrobilli ci piace, fatto da Jimmy Tenor che è un musicista e compositore finlandese, ha fatto un sacco di dischi, alcuni usciti anche per la Warp Records, così come questo dal quale è estratto il brano che vi faccio ascoltare Jimmy Tenor perché suona tra i tanti strumenti anche il sassofono tenore, che è il suo strumento preferito. Vi avevo fatto ascoltare un'altra cosa un po' più ambientale, Jimmy Tenor, tanto tempo fa. Questa invece è sempre legata alla puntata di stasera, quindi con queste bass line, con questo modo un po' elettro e ritmato di fare e comporre musica. Il pezzo si chiama Sugar Daddy, è una gran bomba, secondo me è molto neuronale, per usare una parola che uso spesso qua. Jimmy Tenor, Sugar Daddy, su Radio Wombat e su 8 Hz, che è questa trasmissione. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero che vi sia piaciuta, una puntata diversa di 8 Hertz, ma tento sempre di farle su cose che avete ascoltato poco e che mi piace pensare che vi aprono un po' la mente in qualsiasi senso e anche vi interessino in modo tale da ricercare le cose buone che ci sono nel panorama musicale, che è difficile secondo me trovare, soprattutto oggi, dove puoi ricercare tutto da solo ma senza nessun tipo di guida, visti tutti i tipi di social, gli sviluppi di internet, insomma. Per cui qualcuno che vi propone qualcosa può sempre essere utile. Siamo alla fine, vi metto un brano coerente, spero, con la puntata, tratto da un film. Volevo fare una puntata appunto sulle colonne sonore, così come ho fatto altre volte, ma mi è riuscito difficile, quindi l'ho scartata perché i film che ho visto recentemente con belle colonne sonore ho avuto proprio difficoltà a reperirle. Per cui questa invece l'ho trovata. E, il film si chiama Summer of 84, quindi ci sta appieno. È una sorta parte che sembra un po' uno Stranger Things di altri registi, diciamo, con colonne sonore affini. Poi si sviluppa tutto in un modo differente. L'ho trovato un gran bel film. Tra l'altro è stato presentato proprio nel 2018 al Sundance Film Festival. È fatto da tre registi giovani canadesi di Montreal, credo, e si chiamano François Simard, Anouk Wissel e Johan Carl Wissel. Credo siano fratelli, non lo so, non mi sono informato molto, mi dispiace. La colonna sonora l'ha curata Les Matos, che sono questo gruppo, questo produttore di musica synth pop e derivati. Assomiglia un po' a Stranger Things, che era il colosso di Netflix che sta andando per la maggiore, che comunque è dignitosissimo. E questo è un po', non mi ricordo se è la chiusura del film, ma vi faccio un po' ascoltare e chiudo anche con la puntata. Grazie a chi ha ascoltato, grazie per chi ascolterà le repliche e i podcast di 8 Hertz di Radio Wombat. Buonanotte a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Tra l'altro, super puntata settimana prossima perché ritorna alla rotella questo format all'interno di 8 Hertz in cui vengono suonate alla radio dal vivo sperimentazioni elettroniche con pochi mezzi, sintetiche, appunto, libere, completamente libere e anonime, per cui non si sa mai chi sta suonando. Potrebbero suonare anche grandi artisti internazionali, chi lo sa. Quindi alla prossima, un abbraccio. Les Matmos, Summer of 84, che è colonna sonora appunto del film omonimo. Buonanotte.